Respiro. Buon pomeriggio e ben ritrovati da Laura Bettini per questa nuova puntata di Respiro, nella quale parliamo di agricoltura, in particolare di agricoltura biologica. Perché? Perché è un settore in cui il nostro paese è leader e perché è un settore che continua a crescere, crisi o no. Cresce in Italia, cresce all'estero, crescono le esportazioni italiane all'estero. Insomma, di tutto questo parliamo con Paolo Carnemolla, che è presidente di Federbio, la Federazione Italiana Agricoltura Biologica. Buon pomeriggio. Buongiorno a tutti. Sì, è vero. È vero, vanno bene, no, le cose, nonostante la crisi, il vostro settore non solo regge, ma incrementa. Ma sì, devo dire che sta incrementando e crescendo paradossalmente proprio in questi ultimi anni di crisi. Abbiamo il dato del primo semestre 2010 che ci dice che c'è quasi un 9% di aumento degli acquisti domestici, peraltro in controtendenza ulteriore abbiamo una crescita più importante da un punto di vista quantitativo a Sud Italia, che invece tradizionalmente è quello che consuma meno biologico, quindi siamo assolutamente soddisfatti. Certo, diamo ai nostri ascoltatori anche qualche punto di riferimento. L'Italia è il primo paese esportatore di biologico al mondo, primo produttore per cereali, ortaggi, agrumi, olive, uva e il secondo al mondo per il riso. Dati corretti, questi riferiscono a qualche tempo fa, però penso siano validi nel complesso. Sì, lo sono. Abbiamo avuto nell'ultimo anno la Spagna che ci ha quasi raggiunti da un punto di vista delle superfici in Europa, però continuiamo ad essere comunque il principale paese produttore esportatore. Del resto i prodotti che lei ha citato sono i classici prodotti del nostro Made in Italy, della nostra agricoltura, e noi abbiamo le condizioni da un punto di vista agronomico, da un punto di vista produttivo, del tipo di impresa migliori per fare biologico. Noi e un po' tutto il bacino del Mediterraneo, ecco perché gli spagnoli. Perché per fare biologico abbiamo condizioni più adatte di altri? Ma chiaramente il biologico è un tipo di agricoltura che non usa prodotti chimici di sintesi e quindi usa prodotti naturali, usa molto i cicli naturali, le condizioni ambientali e quindi ovviamente ha bisogno di un clima, di un terreno, di condizioni di coltivazione ideali. Chiaramente nel nostro clima mediterraneo, nelle nostre condizioni, è molto più facile fare un certo tipo di agricoltura, è più difficile nel nord Europa, in altre realtà, dove le condizioni climatiche sono molto più avverse e quindi c'è bisogno di utilizzare dei prodotti di sintesi spesso per difendere le colture o addirittura dei concimi per far crescere di più i prodotti. Ecco, noi non abbiamo questo bisogno di queste cose, quindi anche le tecniche, i prodotti del biologico vanno bene. Il biologico è un qualcosa di più tipicamente europeo o anche in altre parti del mondo sta prendendo piede? Tenga presente che oggi il primo produttore mondiale da un punto di vista, diciamo, delle dimensioni quantitative, quindi sempre distinguendo il mercato invece dalle superfici, dalla parte agricola, la Cina. E gli Stati Uniti sono il secondo mercato. Diciamo immagino che il primo produttore di riso sia per l'appunto la Cina. No. Ci sta arrivando, per ora siamo noi ancora abbastanza avanti, ma ci sta arrivando rapidamente. Diciamo che ormai l'agricoltura biologica è tutto il pianeta, stiamo parlando di un mercato che vale, stimato quest'anno, più di 40 miliardi di dollari, di cui diciamo Europa e Stati Uniti sono la parte prevalente, ma c'è un forte sviluppo di questa agricoltura, specialmente appunto in Asia e in Sud America. Soprattutto diciamo che c'è una tendenza crescente anche nei nuovi investimenti in agricoltura ad andare verso tecniche di tipo sostenibile da un punto di vista dell'uso delle risorse, dell'acqua, e il biologico ha il grosso vantaggio che oltre a usare queste tecniche è anche certificato e quindi riconoscibile dal consumatore, quindi a livello mondiale questa agricoltura che sta crescendo anche più di come cresce in Italia. Approfitto un po' della sua presenza per una curiosità, come mai i prodotti biologici costano di più degli altri, anche se è vero che negli ultimi anni i prezzi sono scesi, la media resta comunque al di sopra di quella degli altri prodotti? Beh, innanzitutto, come ha detto lei, giustamente c'è stata una riduzione, tant'è che una parte del motivo del perché anche nel primo semestre 2010 abbiamo un aumento forte degli acquisti domestici è perché c'è stato un abbassamento di circa il 2,5% dei prezzi. E questo dimostra che, come dire, il consumatore è molto sensibile e se i prezzi calassero ancora di più probabilmente avremo un mercato maggiore. Beh, sui prezzi dei prodotti alimentari però bisogna fare una premessa, perché noi siamo abituati a comprare telefonini, scarpe, vestiti, macchine guardando a tante cose, anche al prezzo, sì, ma il prezzo è un po' una variabile. Paradossalmente su quello che mettiamo dentro, su quello che poi influisce anche direttamente sulla nostra salute, sul nostro benessere, siamo molto disattenti. Abbiamo dei prezzi a volte troppo bassi dei prodotti alimentari, pensiamo a tutti i prodotti importati di cui non si sa la provenienza, e quindi c'è un tema di confronto rispetto a che cosa costa di più o di meno. Un prodotto biologico può costare molto di più se è un prodotto molto diverso, penso a un pollo, a una carne, stiamo parlando di animali allevati a terra, con spazi molto ampi, con mangimi senza OGM, senza cure veterinarie, con prodotti di sintesi, quindi c'è oggettivamente un costo maggiore di produzione. Abbiamo invece prodotti, penso a tutti i trasformati vegetali tipici del nostro Made in Italy, come le passate o altri prodotti, che costano meno di un prodotto di alta marca. Su altri prodotti bisogna lavorare ovviamente per aumentare i volumi e ridurre l'inefficienza e quindi avere dei prezzi ancora più bassi. Aumentare i volumi tramite la grande distribuzione o magari piccoli punti vendita? Perché sì, c'è da dire che ancora il canale, per certi versi, ovviamente di massa maggiore, la grande distribuzione, il fatto che il sud sia cresciuto è motivato dal fatto che la grande distribuzione adesso sta cominciando ad avere una discreta rete anche al sud e quindi lì si trova il biologico. Abbiamo un problema sul canale specializzato, perché in Italia abbiamo un'unica catena con una sessantina di punti vendita, ma sono ovviamente molto pochi. Non c'è il biologico in tutto il dettaglio di prossimità, diciamo quello piccolo e medio che abbiamo sotto casa, e questo sicuramente è uno dei temi per appunto allargare il più possibile i volumi. A quel punto necessariamente, come già sta accadendo, i prezzi caleranno. Presidente, io la ringrazio molto della sua disponibilità e pazienza per stare con noi e le auguro buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro, buongiorno. Ringraziamo ancora Paolo Carnemolla, lo ricordo, presidente di Federbio, Federazione Italiana Agricoltura Biologica, e diamo il benvenuto a un altro ospite, Ignazio Cirronis, produttore biologico della cooperativa Satra Sardigna. Sì, buongiorno. Buongiorno. Come ha scelto di entrare nel mondo del biologico e quando? Sono passati quasi 30 anni, perché datava l'anno 1982, quella del Mundial spagnolo per l'Italia, quindi dei bei ricordi. Abbiamo scelto con altri ragazzi giovani di fare una cooperativa che si occupasse della produzione agricola, e la nostra motivazione era: facciamo una cosa che ci concili con l'ambiente, anche con l'etica, e quindi scegliemmo a quel punto anche una cosa che barava pure alla nostra salute oltre che a quella dei consumatori. Ma provenivate già dal mondo agricolo oppure no? Di noi nessuno, in modo assoluto, e le prime difficoltà infatti sono state anche queste, non c'è alcun dubbio, però dopo alcuni anni abbiamo cominciato a produrre bene e anche a vendere i nostri prodotti. Poi che non sono, è bastato. Che prodotti sono? Ma l'ortofrutta il principale, e il secondo ugualmente molto importante, i formaggi, che nella nostra isola evidentemente sono i pecorini, sono abbastanza rinomati. Sono anche molto discussi ultimamente, no? Cioè, sì, c'è problema, una grossa crisi per quanto riguarda soprattutto il pecorino romano e altri prodotti di questo tipo, ma in realtà nel mondo del biologico, diciamo, il mercato ancora tiene per il pecorino in modo particolare, ci sono interessanti richieste in tutta Europa, insomma. Abbiamo iniziato prevalentemente in Sardegna. Distribuite i vostri prodotti, ma il 40% del fatturato lo facciamo in Sardegna, il 20% sul territorio nazionale e il 40% all'estero, a sua volta principalmente in Germania, che è notoriamente uno dei mercati più interessanti, ma anche fuori dalla Germania, arriviamo fino agli Stati Uniti e al Giappone. In California abbiamo un deposito nostro, un magazzino, insieme ad altri produttori biologici, perché dell'Italia, non solo della Sardegna, perché abbiamo capito che la aggregazione è assolutamente importante fra i produttori. Quindi il famoso fare squadra, voi l'avete fatto tra produttori del biologico e avete aperto questo magazzino in California. Sì, è stato costituito un consorzio, il consorzio Garanzia Bio, e quindi con l'aiuto anche di alcuni programmi promozionali che abbiamo utilizzato, abbiamo iniziato le nostre esportazioni anche in mercati extraeuropei, però ovviamente siamo molto legati anche alla nostra terra, non è un caso che abbiamo aperto il nostro quinto punto vendita, tutti gestiti dal personale della cooperativa, quindi è importante perché si crea una sinergia tra la produzione e la vendita, e il rapporto anche molto immediato con i consumatori per capire anche proprio come vanno i nostri prodotti dal loro punto di vista. I numeri vi danno soddisfazione poi? a fine mese? I numeri ci danno soddisfazione perché attorno a questa cooperativa, che è nata con una dozzina di ragazzi, come eravamo in quegli anni, oggi sono almeno 200 famiglie che ci lavorano, e oggi è una cooperativa con 5 milioni di euro di fatturato, e quindi che permette alle aziende di andare avanti e a chi ci lavora di avere il suo reddito. Insomma. In questi anni di crisi voi avete... Non c'è crisi. Non c'è crisi nel vostro settore. È inutile che dica qualcosa che non è una parola... Ma meglio così, se ci sono settori che... Devo essere sincero, nel senso che è inutile dire sempre piove governo ladro. Se a un certo punto... questo non vuol dire che l'agricoltura, della quale pure mi occupo per altri motivi, non stia segnando una crisi profonda. Però la crisi... Tra l'una e l'altra agricoltura, allora qual è la differenza? Che cos'è che a voi così la differenza è che l'aumento dei consumi di prodotto biologico è molto più veloce, o comunque sta più o meno in linea con l'aumento della produzione biologica di anno in anno, quindi non c'è una differenza fra domanda e offerta. Invece nell'agricoltura convenzionale c'è un problema di ingresso di nuovi prodotti da mercati soprattutto extraeuropei, ma anche europei nuovi, e quindi sul mercato più importante per noi, che è quello nazionale e quello europeo, che poi alla fine si combaciano, si integrano, accede tanta di quella produzione che i prezzi crollano. Questo è il problema. Per quanto riguarda invece il biologico, questo non è che non avvenga, perché i problemi ci sono anche nel biologico, però si creano quotidianamente nuovi mercati, e se uno è bravo entra anche nei nuovi mercati, perderà una quota da una parte e l'acquisisce da un'altra. Mi spiego, valorizza meglio i prodotti, sfrutta di più il mercato locale. Ecco, ci sono tante cose da poter fare per cercare di difendersi, ma è un mercato in crescita. Insomma, lei è contento, ecco, di questa scelta? Non è stata non solo una scelta, sì, a non vantaggio... solo sono contento, ho inserito anche a lavorarci mio figlio, che con soddisfazione ci lavora. Lui è quello contento, che... allora? Ma assolutamente sì, cioè nel senso che ha trovato modo anche di utilizzare i suoi studi, certo. Dice anche della gioventù che si allontana dalle campagne nel caso di suo figlio. Ed è vero, però noi abbiamo parecchi giovani, insomma, sia nelle aziende che si associano. Le posso dire che in Sardegna, per dire un esempio molto semplice, ci sono state 1800 aziende nuove agricole con la misura 112 del programma di sviluppo rurale, sostanzialmente il cosiddetto premio di primo insediamento, cioè gli agricoltori che per la prima volta fanno la scelta di andare in agricoltura. Solitamente sono o figli di agricoltori o comunque periti agrari e agronomi che in qualche modo hanno una possibilità di un terreno da utilizzare, eccetera. Bene, hanno un contributo in 7 anni di 35.000 euro a fondo perduto dalla Unione Europea e dallo Stato, eccetera. Allora, su 1800 domande approvate in Sardegna, 900 hanno fatto la scelta del biologico. Ci sono anche altre motivazioni, per esempio il fatto che il biologico dava anche un punteggio, però... Grazie mille, buon lavoro allora. Grazie a voi, arrivederci. A risentirci. La puntata di Respiro di oggi si conclude qui. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora per una nuova puntata di Respiro. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.